Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Dopo le critiche sulla scuola, il ministro Azzolina a Radio 24 rassicura: per la ripartenza a settembre abbiamo 2,5 miliardi da investire. Governo Zingaretti avverte Conte: dire sì al MES e spendere i soldi europei per il rilancio della sanità e della ricerca. Naufragio nel mare Egeo, almeno 4 persone disperse e 35 soccorse della guardia costiera turca davanti all'isola di Lesbo. Coronavirus, nuovo lockdown a Los Angeles, sale il contagio anche in Messico, quasi 20.000 casi in India in 24 ore. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, dopo le critiche piovute sul piano del MIUR per la ripartenza della scuola a settembre, il ministro dell'istruzione Azzolina, dai microfoni di Radio 24, spiega, cercando di rassicurare, che i soldi per gestire la didattica con le nuove esigenze anti-Covid a settembre ci sono, risorse che ammonterebbero a 2,5 miliardi di euro. Ne parleremo tra poco. Prima però la politica, con il segretario del PD Zingaretti che incalza il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su un altro dossier, che è quello del MES. Occorre decidere di far ricorso ai soldi europei senza condizionalità. Sentiamo. Il ricorso al MES, il meccanismo europeo di stabilità, agita la maggioranza. A dividere PD e 5 Stelle è il prestito da circa 37 miliardi a tassi agevolati messo a disposizione da Bruxelles per le spese sanitarie post-Covid. Basta tergiversare, incalza il segretario PD Nicola Zingaretti. Il MES ora è uno strumento diverso dal passato. Quei soldi sono utili alla sanità, afferma. Ma il pressing dei Dem non piace 5 Stelle. Il PD dovrebbe prima spendere i soldi che i loro ministri hanno in portafoglio e che i loro presidenti di regione hanno per la sanità e non stanno spendendo, replica il vice ministro pentastellato all'economia Stefano Buffagni, che invita a pensare all'economia e non alle bandierine. Il MES però non è l'unico elemento di frizione tra i due partiti di maggioranza. A luglio scadono infatti le 18 settimane di cassa integrazione speciale Covid e per l'ulteriore proroga PD e 5 Stelle sono alla ricerca di una soluzione che deve fare i conti con le risorse. I Dem sono per una cassa integrazione speciale solo per i settori più colpiti dalla quarantena Covid, mentre i 5 Stelle sono favorevoli a una proroga generalizzata per tutto il 2020. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dicevamo delle critiche da parte di docenti, presidi, insegnanti e studenti al piano del MIUR per la ripartenza della scuola a settembre. La principale critica è che dietro l'autonomia scolastica si nasconde in realtà uno scarico di responsabilità sui presidi, che dovranno conciliare la ripresa della didattica con le norme anti-Covid. Dunque, dicevamo, il ministro Azzolina interviene e dai microfoni di Radio 24 spiega che i soldi per gestire queste nuove esigenze ci sono ed ammontano a 2,5 miliardi di euro. 1,5 miliardi stanziati dal governo e 1 miliardo di risorse mai spese. Sentiamola. Non soltanto le scuole riapriranno il 14 settembre, ma già dal 1 settembre le scuole di fatti riaprono per tutti quegli studenti e studentesse che hanno da recuperare o da potenziare gli apprendimenti dell'anno scolastico appena concluso. Quindi dal 1 settembre le scuole riaprono per una parte di studenti, dal 14 riaprono per tutti. Come sarà speso il 1 miliardo in più? Ci tengo a dire che per settembre noi abbiamo quindi 2,5 miliardi. Quindi innanzitutto serviranno degli arredi nuovi. Banchi singoli permettono di recuperare spazio se dobbiamo mantenere il metro di distanza da bocca a bocca in classe, e non solo in classe chiaramente. Ovviamente serviranno spazi nuovi, quindi nuove aule, serviranno per fare passi territoriali, quindi per portare i nostri studenti e le nostre studentesse anche fuori dalla scuola intesa in maniera tradizionale. E poi ovviamente l'organico, c'è bisogno di più maestre e di più maestri. Quindi sicuramente parte di questi soldi saranno spesi per l'organico. E ora andiamo all'estero, dove ci sono molte notizie. Almeno 4 persone risultano disperse nel mar Egeo dopo il naufragio al largo della Turchia di un gommone carico di migranti diretto alle isole greche. Altre 35 persone che si trovavano a bordo sono state tratte in salvo dalla guardia costiera turca al largo dell'isola di Lesbo. È di 10 vittime invece il bilancio di un attacco avvenuto oggi in Pakistan alla borsa di Karachi. Un gruppo armato ha fatto irruzione nell'edificio che ospita la borsa pakistana, nella capitale finanziaria del paese, e ha aperto il fuoco lanciando una granata nella sala principale dove si svolgono le contrattazioni. Morti tutti e quattro gli assalitori, morte anche quattro guardie, addette alla sicurezza, un poliziotto e un civile. In Libia invece prosegue lo scontro armato a Sirte tra il generale Haftar in ritirata e le forze del governo di al-Sarraj sostenute dalla Turchia. L'aviazione del generale Khalifa Haftar ha condotto 3 raid aerei contro milizie del governo libico a est di Sirte. 3 raid contro le forze sostenute dalla Turchia vicino al ponte Sadada a est di Sirte, annuncia in un comunicato la divisione informazione di guerra delle forze haftariane. Sirte, città strategica sull'omonimo golfo, è la porta verso i giacimenti della mezzaluna petrolifera libica, attuale fulcro dello scontro tra Haftar in ritirata e le forze del governo di Fayez al-Sarraj che lo incalzano da est. Sirte è anche il capolinea sul Mediterraneo della cosiddetta linea rossa che l'Egitto considera invalicabile e quindi potenziale fattore di inasprimento della tensione nel Mediterraneo tra Cairo, Ankara, la Russia e i rispettivi alleati europei. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Ancora la notizia di cronaca: i carabinieri stanno cercando due persone che nelle prime ore di questa mattina hanno travolto un carabiniere di 48 anni, ora ricoverato in prognosi riservata. È successo a Mordano, in provincia di Bologna. I due farebbero parte di una banda che intorno alle 4 del mattino ha tentato un furto in una tabaccheria a Lugo, nel Ravennate. Sono fuggiti, la loro auto è stata intercettata da una pattuglia, il militare è stato investito, adesso i due sono ricercati per tentato omicidio. E riapriamo la pagina dedicata alle notizie sul coronavirus. Negli Stati Uniti sono registrati oltre 280 decessi nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Oltre 2 milioni e mezzo i casi complessivi, di nuovo chiusa Los Angeles, mentre il contagio sale anche in Messico e ben 19.000 casi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in India. Sono più di 500.000 i morti per coronavirus nel mondo e oltre 10 milioni i casi, secondo i conteggi della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia. I numeri più pesanti li registrano sempre gli Stati Uniti, con oltre 125.000 vittime e più di 2 milioni e mezzo di contagi. A Los Angeles chiusi nuovamente i bar e in altri 12 stati, in particolare del sud come Arizona, Nevada, New Mexico, Texas e Florida, nuove misure restrittive per arginare il balzo di contagi. In America Latina frena la mortalità in Brasile ma non in Perù e in Cile, e torna il lockdown per mezzo milione di persone in Cina. I timori per una seconda ondata a Pechino hanno spinto il governo a istituire una nuova zona rossa. Restrizioni per nuovi contagi anche in Corea del Sud, in crescita specie a Seul e dintorni da fine maggio. In Russia, dove finora le vittime sono state oltre 9.000, al via da oggi test vaccinali sugli umani. E sono 101 infine le personalità mondiali, tra artisti, imprenditori, politici, sindaci ed accademici, a sottoscrivere il documento proposto dal premio Nobel per la pace Yunus affinché il futuro vaccino per il Covid-19 sia un bene comune universale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mentre in Italia i nuovi contagi registrati ieri sono stabili, metà si trovano ancora in Lombardia, ma l'attenzione resta concentrata sui nuovi focolai. Sono 174 i nuovi contagiati da coronavirus in Italia, di fatto stabili rispetto al giorno prima, quando erano stati 175, per un totale di casi pari a 240.000. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid, 97 persone, è in Lombardia. In aumento le vittime dopo le 8 del giorno precedente, ieri sono state 22. A preoccupare sono soprattutto i diversi focolai sparsi nel paese, il caso della Bartolini di Bologna, dove le persone contagiate sono diventate 107. Sempre nel bolognese si contano altri 8 casi registrati in una casa di riposo a San Pietro in Casale, mentre a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, sono state trovate 7 persone positive in 2 famiglie. A Mondragone, in provincia di Caserta, c'è solo un paziente positivo, subito isolato al di fuori della mini zona rossa istituita nei palazzi ex Cirio, che conta 49 positivi. Zona rossa anche per i quartieri Pietre Nere, Tonnara, Scinnara, di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove ci sono 8 casi. La bassa circolazione virale porta a sottovalutare il rischio che invece esiste e ad allentare le misure di precauzione, ma così facendo si continua a far circolare il virus, avvertono gli esperti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ieri in Francia di fatto è stato il primo, si sono avuti i risultati di quello che è il primo test elettorale post-Covid, e allora sentiamo com'è andata, soprattutto con alta astensione e una vittoria per i Verdi. All'indomani della sonora sconfitta al secondo turno delle elezioni municipali, la République en Marche del presidente Emmanuel Macron si lecca le ferite e fa i conti al suo interno. I Verdi, sostenuti dalla sinistra, hanno trionfato in diverse città come Strasburgo, Lione, Bordeaux o Marsiglia. A Parigi si è riconfermata la sindaca uscente, la socialista Anne Hidalgo, battendo la repubblicana Rachida Dati e la macroniana Agnès Buzyn. En revanche, nous avions un objectif extrêmement difficile. C'était de apparaître dans un paysage dont nous étions totalement absents. Avevamo un obiettivo estremamente difficile, che era quello di apparire in un paesaggio dove eravamo totalmente assenti, ha detto il capogruppo all'Assemblea nazionale di En Marche, Gilles Legendre, ai microfoni di LCI. Un paradosso per Macron, sconfitto proprio sul tema dell'ambiente, sul quale vuole costruire quest'ultima parte del suo mandato in vista delle elezioni presidenziali del 2022. Adesso il presidente cerca di ripartire con un rimpasto di governo che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Gli occhi sono tutti puntati sul primo ministro, Edouard Philippe, che ieri si è aggiudicato il comune di Le Havre in Normandia, confermando la sua crescente popolarità. Un rompicapo per l'inquilino dell'Eliseo, che si ritrova a dover decidere sul destino politico del suo alleato più affidabile. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E ora la pagina sportiva del lunedì con Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Allora, calcio, naturalmente abbiamo detto sarà un'estate in cui sarà sempre lunedì. Oggi però è lunedì. Oggi è lunedì davvero e non cambia niente rispetto agli altri giorni. Perché abbiamo... si è giocato. Sì, sì, sono giocate ovviamente tutte le partite che non hanno granché cambiato gli equilibri, perché hanno vinto le prime tre. Il Milan ha battuto la Roma e questo è un risultato forse più sorprendente di quelli usciti ieri, e l'Atalanta continua a spaccare il mondo. Sia Atalanta che Napoli sono in questo momento nettamente per distacco le due squadre più in forma. Dunque, questo il senso, insieme a un sacco di gol, molti dei quali bellissimi, questo è un tema. Le partite sono abbastanza lente come ritmo per motivi facilmente intuibili. Però sono tutte molto tecniche, molto divertenti e con un grande peso specifico degli allenatori. Questi sono tutti temi che approfondiremo in tutti i convocati. Alessio. Immagino anche l'avvio, la notizia dell'avvio poi questa settimana della Formula 1. Stagione di Formula 1, cioè, col Gran Premio d'Austria, giusto? Comincia la stagione dei motori con Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il 19 di luglio, quindi tra non molto, due settimane, cominceranno anche le moto, quello del moto mondiale, con la notizia dell'infortunio Dovizioso, si è fatto male allenandosi con il motocross, verrà operato, ma dovrebbe esserci per l'inizio della stagione, perché sappiamo che questi sono fatti di gomma e quindi questa è la notizia della domenica. Grazie Carlo, ti ritroviamo naturalmente a partire dalle 14. Noi facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Parleremo anche di quello che è accaduto sabato a Milano, treno in partenza per la Liguria, passeggeri costretti a scendere, ma era accaduto anche dalla Liguria verso il Piemonte e la Lombardia. Che succede? Succede che ci sono troppi biglietti e pochi posti a sedere. Per via delle norme anti-Covid abbiamo cercato di contattare Trenitalia, non ci siamo riusciti, vi racconteremo comunque quello che sta succedendo. E poi ancora scuola, tra poco. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Dopo le critiche sulla scuola, il ministro Azzolina a Radio 24 rassicura: per la ripartenza a settembre abbiamo 2 miliardi e mezzo da investire. Governo Zingaretti avverte Conte: dire sì al MES e spendere i soldi europei per il rilancio della sanità. Libia, 3 raid aerei di Haftar contro le forze di Al-Sarraj a Sirte. Naufragio nel Mar Egeo, almeno 4 persone disperse. Coronavirus, nuovo lockdown a Los Angeles, sale il contagio anche in Messico e in India. 13 e 16 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E allora, dopo la presentazione venerdì scorso delle linee guida del MIUR per la ripartenza della scuola a settembre, c'è stato il tempo per metabolizzare queste novità, queste proposte che arrivano, che sono tante: scuola per turni, scuola forse anche il sabato, la necessità di mantenere un distanziamento di un metro tra le bocche dei ragazzi, eccetera, eccetera. Sono arrivate tra sabato e domenica un'ondata di critiche, le linee guida erano già sostanzialmente attese, quindi insomma, anche le critiche erano già in qualche modo sul piatto. Questa mattina, l'abbiamo sentito nella parte di cronaca dei titoli di Effetto Giorno, la ministra Azzolina ha in qualche modo voluto rispondere con delle risposte articolate. La più importante, la sintesi, il titolo più importante è che ci sarebbe 1 miliardo di risorse in più per investire, perché il fattore comune delle critiche rivolte al piano del ministro Azzolina è in qualche modo che dietro l'autonomia scolastica si nasconda uno scarico di responsabilità nei confronti dei presidi che, non avendo le risorse necessarie per intervenire con le modifiche del caso, rimarrebbero i responsabili poi ultimi della necessità poi di comprimere di nuovo nelle famose classi pollaio, andando a stringere i ragazzi che però per le norme anti-Covid non possono farlo a settembre. Ne parliamo con uno di loro, uno dei presidi, il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Meucci di Carpi, il professor Luigi Vaccari. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo nell'area di Carpi, nella provincia di Modena, una scuola che conta circa 1 migliaio di studenti, una scuola quindi importante, grande, abbastanza grande insomma. E partiamo dalle critiche che sono venute fuori in queste 24 ore, poi le chiederò anche la sua priorità. Faccio giusto ricordo quello che è stato detto: dal fatto che si riparta il 14 settembre, e invece dopo 6 mesi di stop si poteva forse provare ad anticipare. Dopo pochi giorni ci saranno le elezioni in 6 regioni, quindi si dovrà interrompere, bastava forse anticipare il voto, oppure si è detto si cercherà di votare non nelle scuole in queste 6 regioni, ma non si sa ancora dove. Poi, se l'obiettivo era non avere più le classi pollaio, il dubbio grosso è come, visto che mancano all'appello, come ogni anno, tutti i supplenti che devono entrare in ruolo, in cattedra, e anche il turnover degli insegnanti che se ne vanno in pensione per via di quota 100 e normale pensionamento, e gli altri, non è ancora completo. Potrei andare avanti con l'elenco, ma ci arriviamo insieme, preside, professor Vaccari. Lei personalmente, per quanto riguarda la sua scuola, si è parlato anche della questione dei trasporti, per esempio di questioni banalmente logistiche, bagni che non hanno le finestre, come si fa? Lei nella sua scuola che problemi dovrà affrontare? Beh, guardi, io dirigo una scuola, come diceva, di 1 migliaio di alunni che diventano 5.000 all'interno del polo scolastico. È evidente che vi sono criticità che ci portano a pensare che non si potrà tornare a scuola come a febbraio. Aule che devono essere riadattate. Nella mia scuola, fortunatamente, è stata rinnovata la sede un paio d'anni fa e quindi pensiamo di poter garantire a tutti una scuola in presenza. Ma lei non ha problema delle classi pollaio, per esempio, o quantomeno sono due problemi: l'elevato numero di studenti e l'eventuale aula troppo ristretta. Dunque, fortunatamente nella mia scuola, come le dicevo, queste situazioni non le registro, sono però presenti nelle scuole vicinori, dove è evidente che le linee guida ci dicono che ancora il 15% delle aule risultano inadeguate, e quindi noi presidi chiediamo che siano individuati locali alternativi, ma non così, immaginandoci aree più o meno verdi, più o meno distanti. Devono essere vicine alla scuola, devono essere dotazioni in regola con tutte le misure di sicurezza e devono essere assolutamente riscaldate, perché chiaramente l'anno scolastico è lungo, e da questo punto di vista occorre una fortissima alleanza con gli enti locali per individuare gli spazi adeguati per tutti. Rimane il problema, come diceva, dei trasporti. Naturalmente gli autobus non nascono sotto i cavoli, quindi un problema già critico negli anni precedenti forse ci porterà a dover distanziare gli ingressi anche per facilitare quelli che sono gli questo effetti però di un affollamento. È una cosa che si è detto fin dall'inizio, no, Preside? Qual è diciamo, la controindicazione del distanziare gli ingressi? Perché altrimenti diciamo che sembra abbastanza scontato che questo si debba fare e anche andando diciamo lunghi sull'orario, 2 ore almeno tra i primi e gli ultimi, no? Per evitare che poi sugli autobus ci siano gli affollamenti. Questo che problemi crea alla scuola? O fortunatamente è uno dei problemi che non crea problemi? No, in realtà i trasporti sono una variabile indipendente che noi dobbiamo prendere come tale, al massimo aiutiamo a rilevare i bisogni e individuare i numeri degli alunni che si spostano. L'obiettivo è quello di trasformare i problemi in opportunità. Noi abbiamo alcune leve, alcune di queste riguardano l'autonomia didattica, altre l'autonomia organizzativa, quindi di fatto la possibilità anche di riconfigurare gli orari di lezione, magari su tempi un po' più ristretti, sul modello universitario dei 45 minuti ad esempio, o per gruppi modulari di alunni, possono consentire anche di liberare magari docenti per accogliere gruppi di alunni più ristretti e quindi differenziando anche gli orari. Poi, noi cerchiamo poi sarà necessario anche che le aziende dei trasporti, dei comuni, insomma degli ambiti definiti per questo, si muovano per cambiare anche gli orari, perché immagino in alcune zone, diciamo non prettamente cittadine, ma un pochino più di periferia o di campagna, di autobus ne passano 2 al mattino, che ne so, tra le 7 e le 8, poi il successivo passa alle 11, ecco, questo non può andare bene, no, naturalmente, perché come si fa a raggiungere la scuola, mettiamo alle 9:30 anziché alle 7:30 del mattino, quindi ci sarà, insomma, questo sarà necessario farlo. Però se ne parla da mesi, speriamo che insomma, le varie realtà territoriali riescano a farlo. Senta, una cosa invece che mi ha colpito personalmente è questa, perché dopo avere, anche io personalmente, in alcuni casi, diciamo, in qualche modo fatto passare l'idea, me ne scuso con gli insegnanti, ma insomma che ci siano stati 3 mesi di un po' di assenza degli insegnanti, o quantomeno di hanno lavorato sicuramente con la didattica a distanza, però insomma che siano state forse la categoria più protetta tra tutti gli italiani, perché tutti gli altri sono tornati a lavorare, gli insegnanti non sono tornati a lavorare adesso, però mi sorprende che, se ho capito bene, non ci sia una previsione specifica per gli insegnanti ultra sessantenni con patologie connesse al rischio Covid, un diabetico per esempio, eccetera. Mi sembra che sia una questione sollevata, quando per esempio in Germania invece è molto chiaro che gli insegnanti in queste condizioni sono esentati fin dall'inizio, o quantomeno non saranno in prima linea. Lei cosa sa di questo? Guardi, il problema che lei ci sta comunicando è davvero una delle criticità più avvertite, la tutela del personale fragile che riguarda sicuramente i docenti, percentuali significative che dovranno essere in un qualche modo tutelate, ma da questo punto di vista aspettiamo un necessario protocollo del Comitato Tecnico Scientifico, un po' come ebbe modo di essere organizzato ai tempi della maturità. Certamente non possiamo immaginare che un docente fragile possa mantenere una postazione lavorativa da casa, la scuola è in presenza, deve essere fatta in presenza. Questa è una criticità su cui attendiamo che soprattutto il mondo della sanità, le aziende sanitarie locali ci dicano come intervenire, ma soprattutto anche i bambini fragili per noi rappresentano una preoccupazione centrale. Pensiamo a tutti i bambini che in un qualche modo, insomma, o per ragioni di disabilità o per altre patologie sono in una condizione fragile. Noi abbiamo bisogno di indicazioni precise e ci dicano quando e come questi possano tornare a scuola. Questi sono aspetti che non ci hanno ovviamente illuminato le linee guida, perché devono essere considerati ad personam, caso per caso. Un'ultima cosa che le voglio chiedere, professor Vaccari, è questa. Prima del passaggio alla conferenza Stato-Regioni sembrava che tra le figure educative che avrebbero dovuto affiancare gli insegnanti per, come dire, garantire lo smembramento delle classi troppo numerose, fosse addirittura i volontari, cioè neanche figure educative, ma proprio figure quasi di accompagnamento, di far passare il tempo a questi bambini e a questi ragazzi. Questa cosa è definitivamente scongiurata, da quello che lei ha capito? Fortunatamente sì, cioè il terreno dell'educazione richiede elevate professionalità. Davvero gli insegnanti si sono riconvertiti dall'oggi al domani in una scuola a distanza e hanno portato a termine l'anno scolastico partendo appunto da zero, insomma, reinventandosi modalità nuove, piattaforme nuove. La didattica a distanza ci ha comunque consentito anche di rinnovare le modalità di fare didattica, una didattica per competenze, una didattica che richiede un maggior attivismo dei ragazzi, meno annoiati rispetto a tante lezioni frontali. Ovviamente noi ci auguriamo una scuola in presenza, ma una scuola che possa anche beneficiare di quelle innovazioni che si sono sviluppate fino ad oggi, insomma. Grazie al professor Luigi Vaccari del Meucci di Carpi, in provincia di Modena. Va bene, saremo a vedere, ne parleremo ancora naturalmente di scuola, come ovvio che sia. Adesso invece bonus babysitter ai nonni, prima il servizio di Dario Ceccarelli e poi alcune notizie di servizio. E il vecchietto dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto per carità. Il vecchietto dove lo metto, non si sa. Il vecchietto, dove lo metto non si sa, cantava Domenico Modugno in una canzone che ha fatto il suo tempo, perché rispetto agli anni 50 i nonnetti ne hanno fatta di strada. Sono sportivi, tecnologici, viaggiatori informati e anche solide colonne di queste fragili famiglie del nostro tempo, con genitori a contratto a termine, facili alle separazioni e soprattutto bisognosi di figure solide a cui affidare i nipoti. Nipoti che non li puoi più intortare con la favoletta del lupo cattivo. Dato ai nonni smart quello che meritano, questa proposta del bonus babysitter, anche per nonni che accudiscono i nipoti, purché non conviventi, lascia molti dubbi agli stessi nonni, che fanno quello che fanno per naturale spirito di solidarietà familiare e non per vedersi riconosciuti in un nuovo status non sempre gradito. Che addirittura ci sia un bonus con tanto di nuova iscrizione all'INPS suona strano, ricorda un'altra vecchia canzone italiana, quella dei contributi a pioggia, per far contenti tutti, anche quando non è contento nessuno. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, sì, effettivamente anche sui social, questa che è una sicuramente una notizia, una buona notizia per chi potrà fare ricorso a questo bonus babysitter per i nonni. Io, dopo essere diventato genitore, la mia prossima ambizione nella scalata sociale è quella di diventare nonno, non il prima possibile, ma insomma di diventarci, e quindi non voglio assolutamente attaccare la categoria dei nonni. Molti però si sono chiesti effettivamente se era proprio necessario, in un paese che non scoppia di risorse, inventarsi un altro, diciamo, capitolo di spesa per pagare quello che è già a tutti gli effetti un rapporto affettivo che esiste o non esiste a prescindere dall'incentivo economico. Parliamo dei nonni. Notizie di servizio che vi avevo anticipato, in realtà non ce ne sono, perché Dario Ceccarelli lo ricordava, l'unica condizione per accedere è quella di non risiedere nella stessa abitazione dei bambini. 349-238-6666, facciamo una pausa, torniamo tra poco. Caos treni in Liguria sarà il prossimo argomento. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Dopo le critiche sulla scuola, il ministro Azzolina, Radio 24, rassicura: per la ripartenza a settembre abbiamo 2 miliardi e mezzo da investire. Governo Zingaretti avverte Conte: dire sì al MES e spendere i soldi europei per il rilancio della sanità. Libia, 3 raid aerei di Haftar contro le forze di Al-Sarraj a Sirte. Naufragio nel mare Egeo, almeno 4 persone disperse. Caos treni da e per la Liguria, venduti troppi biglietti per i posti disponibili, passeggeri costretti a scendere. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati alle 13.35 con Effetto Giorno in diretta. I vostri messaggi al 349-238-6666, ma anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Vado veloce con questo ascoltatore, Lorenzo da Vicenza, che dice: io con 3 bambini alla primaria Vado 3 volte a portarli e 3 volte a prenderli in auto? Punto di domanda. Questo è un bel dilemma, perché se hai 3 figli che vanno anche nella stessa scuola, ma in 3 classi diverse, in 3 orari diversi, effettivamente forse in 2 genitori ci si può dividerli, però anche questo è un problema. Si potrebbe sorteggiare l'ordine, definire un ordine per famiglia, no? Anche per lettera dell'alfabeto, in base all'iniziale del cognome, così da favorire le famiglie. Poi, ancora, chi se non i presidi può prendere queste decisioni? Il Ministero come farà a sistemare ogni scuola d'Italia? Si domanda questo ascoltatore. Impossibile, i presidi fanno scaricabarile, non vogliono responsabilità, sono imbarazzanti. Qui, diciamo, si rovescia l'argomento utilizzato dai presidi che accusano il governo di lasciarli soli, col fatto di dire che sono i presidi che... Pure sono dirigenti scolastici e in un regime di autonomia scolastica dovrebbero vedersela da soli. E l'argomento è sicuramente fondato e anche condivisibile. Io però ho già detto una volta che bisogna chiarirsi, perché i presidi credo che non abbiano nulla contro l'autonomia, neanche in questo caso, purché gli si diano le risorse necessarie per fare quello che è necessario. Se io devo sdoppiare una classe, ho bisogno di un insegnante in più, ce l'ho i soldi per assumere questo insegnante, se sono un preside, o un dirigente scolastico, o non ce l'ho, perché se non ce l'ho non è che i presidi possono battere moneta, se non glieli dà il ministero questi soldi non ci sono da nessuna parte. Ancora un altro ascoltatore al volo velocissimo, sarebbe ora che Radio 24 inizi a essere più precisa sulla scuola. Il dirigente scolastico, preside come lo state chiamando voi, non è più professore, diventando preside perde il titolo di prof, scrive Maurizio da Trieste. Grazie per la precisazione, Maurizio. Adesso invece cambiamo argomento e, come anticipato, parliamo del caos che è avvenuto sabato mattina a Milano in partenza per la Liguria, ma nei giorni scorsi dalla Liguria in uscita verso il Piemonte e la Lombardia. Ecco, noi Furio Truzzi, che è il presidente di Asso Utenti. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, che è successo? È successo sabato mattina che sul treno da Milano per la Liguria, per Genova, direzione Liguria, c'erano troppe persone a bordo, ma che avevano tutti regolare biglietto, biglietti venduti da Trenitalia, ma con le norme anti-Covid e col distanziamento tutte queste persone sul treno, se abbiamo capito bene, non ci potevano stare e sono dovuti scendere. Poi Trenitalia ha fatto su un altro treno un paio d'ore dopo è successo un po' di confusione. Truzzi, ci spiega bene qual è il problema e che tipo di treni riguarda questo problema? Il problema è l'incapacità di aver, senza la sfera di cristallo di nessun mago, la comprensione che decine e decine, centinaia e migliaia di lombardi, di milanesi, ma anche a Torino, e stessi episodi identici della centrale di Milano a Porta Nuova Torino, che per venire in Riviera, visto anche la difficoltà del mezzo privato della macchina, hanno deciso di prendere il treno e naturalmente si sono trovati che per i treni regionali non c'è nessun limite di prenotazioni, come invece è bloccato il sistema per le frecce e per l'Intercity. Noi avevamo chiesto più di un mese fa a Trenitalia, Ferrovie dello Stato, di introdurre la prenotazione obbligatoria anche sui treni, proprio per scongiurare questi episodi, di modo che uno so già da prima se il posto ce l'ha o non ce l'ha sul treno. E cosa vi hanno risposto? Lei lo sa, nemmeno io. Quindi non vi hanno risposto. Che è lecito domandare cortesia e rispondere, ma la cortesia è rimasta un po' appesa, nelle porte, nelle stanze di qualcuno. Ecco, c'è stato detto che ci si sarebbe lavorato sopra, ma francamente a tutt'oggi, come vedete e come i viaggiatori sanno, il sistema non esiste. Ecco, quindi... Truzzi, però una curiosità, perché per esempio la Liguria, dove pure questa cosa è successa nei giorni scorsi, se abbiamo capito bene, ha eliminato, come vuol far Zai anche in Veneto, ha eliminato l'obbligo di mantenere un posto sì, un posto no sui treni locali. Esattamente quello che noi abbiamo chiesto 5 giorni fa. Noi abbiamo preparato un documento che parla di tutto il problema della mobilità del nord-ovest e non solo, e abbiamo scritto, diciamo, dal ministro dei trasporti ai presidenti delle regioni, agli amministratori delegati di Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Però scusi un momento, Truzzi, proprio... perché al di là di quello che avete chiesto voi, la Liguria l'ha fatto, gli altri la domanda è questa: ma che senso ha avere parlato fino ad oggi e continuare a parlare di focolai, di attenzione alla possibilità del contagio, di settimane, mesi di attesa di commissioni, comitati e di attenzione da fare per mantenere il distanziamento sociale, se poi in un attimo cade l'obbligo per chi sta magari per 2 ore all'interno di un treno chiuso di stare a 1 metro di distanza? No, attenzione però, è perché qui mettiamo d'accordo i virologi più severi con quelli più disinvolti. Io sono stato molto attento e come molti italiani hanno seguito tutto il dibattito, e quando si ha la mascherina non dico che ci si può baciare, ma quasi. Quindi noi siamo sulla linea di un profilo sanitario che è la mascherina obbligatoria, e anzi ci siamo lamentati con Trenitalia perché c'è poca sorveglianza e episodi, diciamo, di persone senza mascherina a bordo treno non li tolleriamo. Ma una volta che c'è la mascherina, il discorso... La mascherina però, Truzzi, no? Mi scusi, ma la mascherina, stiamo discutendo se far rientrare a scuola a settembre, forse, come, almeno mantenendo 1 metro di distanza. Lei mi sta dicendo che su un treno si può salire quanto ci pare, tutti avvicinati, purché abbiamo la mascherina. A me non risulta che sia così. A me risulta dalle dichiarazioni del virologo dell'ospedale Sacco di Milano e di altri che abbiamo sentito, e fino a prova del contrario, che la mascherina è sufficiente a tutelare la salute, ovviamente anche in condizioni di ambienti ristretti e inferiori al metro. La sfido su questo quesito, decida lei quali virologi interpellare. No, ma non è una sfida tra me e lei, Truzzi. Non è una sfida tra me e lei. Oggi noi abbiamo, guardi, le leggo una notizia. Tra poco uscirà l'ordinanza della Regione Lombardia che rende obbligatoria all'esterno ancora l'utilizzo della mascherina fino al 14 di luglio all'aperto. Quindi questa, diciamo, è la situazione in cui siamo. Dopodiché poi che sui treni o sui vaporetti di Venezia... in mezzo da solo un campo di grano con la mascherina. Cioè, siamo alle solite deficienze italiane, a una strategia di burocrazia difensiva che non ha nulla con la tutela della salute, perché per tutelare la salute ci vuole anche la capacità sanitaria e il buon senso. Allora la mascherina è obbligatoria per impedire le droplet, quelle solite sputazzate. Sì. No, ma al di là di questo, Truzzi, sappiamo benissimo a cosa serve la mascherina. Mi sembrava interessante chiedere a lei, come asso utenti, se la strada da seguire è quella, secondo voi, di più, diciamo, di far cadere l'obbligo del posto sì, posto no, oppure se invece inserendo l'obbligo della prenotazione obbligatoria, che era la vostra prima richiesta, uno sa in anticipo se sale o no su un treno sicuro. Però a domanda rispondo: noi abbiamo chiesto la prenotazione obbligatoria e quando i treni sono saturi al 100% siamo a posto. Le ricordo che in questo momento c'è ancora il distanziamento per cui i treni non si saturano perché sono al 40-60% esatto della loro occupazione, e quindi noi chiediamo le due cose: prenotazione obbligatoria perché tutti possono avere il posto a sedere anche se non alternato, purché ci sia l'obbligo della mascherina. Queste sono le cose che abbiamo scritto e che finora nessuno ufficialmente ci ha contraddetto, a partire dalle istituzioni sanitarie. Va bene. Io la ringrazio, Furio Truzzi di Assutenti, grazie per essere stato con noi. L'ultima precisazione è che abbiamo cercato Trenitalia per chiedere naturalmente la loro posizione, ma anche noi non abbiamo avuto risposta. È tutto per la puntata di oggi, con Carmelo Ricelli in regia, Danilo Vitrani in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Vi lascio ad Andrea Ferro, hashtag autotrasporti, da Alessio Maurizio, l'auguro di una buona giornata, a domani, ciao.